Allora, buonasera, benvenuti a tutti quanti, grazie della vostra partecipazione. Ci cimentiamo con un tema nuovo rispetto ai nostri consueti appuntamenti settimanali, visto che tratteremo un argomento d'attualità che è appunto internet, il suo corretto utilizzo e soprattutto i rischi che si possono correre se non si prestano particolare attenzione ed accorgimenti in alcuni casi. Penso che siano messaggi destinati a tutti, ma anche con un occhio in particolare per i giovani, che di questi nuovi sistemi di comunicazione ne fanno quasi un abuso ogni tanto, nel senso guardando qui in questa zona. E certo è un modo di comunicare nuovo che forse anche noi stiamo inseguendo, non sempre con grande facilità, però ci sono dei rischi. Dei rischi non sempre individuabili, molto difficili da concretizzare, però sono delle insidie che anche stamattina sono state chiaramente illustrate da Paolo Gasperi, che è uno dei relatori. Questo è un doppio appuntamento, diciamo, perché stamattina c'erano tre classi del liceo classico e diciamo che l'incontro è stato seguito con grande attenzione ed è stato anche promosso dagli stessi insegnanti che ci tenevano a portare i loro alunni a questa occasione a ascoltare. Ringrazio Paolo Gasperi che si è offerto e ha così dato là questa iniziativa. Con lui c'è il correlatore che è Silvano Marchi e che ringrazio, e ringrazio anche l'ispettore Mauro Berti, che poi ci parlerà in quanto direttamente coinvolto in questo servizio di controllo, di sorveglianza e anche di individuare eventuali reati e rei. Bene, la biblioteca ha questo documento perché si tratta sempre comunque di un libro che può essere anche scaricabile da internet, alcune copie le abbiamo qui. Quindi c'è una documentazione che volendo si può consultare e poi abbiamo anche altri libri sempre legati all'argomento. Perfetto. Buona serata e grazie. Grazie mille Valeria. Grazie. Allora, per presentare questo libro, cosa che noi abbiamo fatto in diverse occasioni, alla fine ci siamo un po' divisi i compiti e siamo partiti. No, penso che si possa sentire. No? Sì, è meglio, sì. Okay. Mi spiace, ma conosco gli scenari. Scusate, ecco. Grazie. Perché la sera poi è. Ok. E abbiamo pensato di partire, aggiustando un po' il tiro, non direttamente dal libro, poi il dottor Marchi lo affronterà nella puntualità e vi spiegherà insomma come è strutturato, come si può utilizzare l'idea insomma sottesa a questo libro, che ripeto è fuori dall'ambito copyright, libero e gratuito, con l'unica richiesta che vi facciamo è che se lo duplicate, lo distribuite a chi volete e non togliate l'indicazione degli autori. Quindi è una modalità che in internet noi favoriamo, di libero scambio delle informazioni, con l'unica indicazione evidentemente di citare gli autori e di non tagliare e incollare, come spesso fanno gli studenti, senza, che è una cattivissima abitudine, citare la fonte. È tutto qui, quindi è libero, potete stamparlo, scaricarlo dalla rete, duplicarlo in n copie, come ha fatto diverse scuole, anche l'ultima a Torino, che l'ha stampato per un intero istituto, col costo vivo solo della carta della stampa. Vi dicevo, ci siamo accorti, presentando in molte occasioni questo piccolo libricino, che uno dei problemi era quello di cercare di capire perché quando poi si leggono le notizie sul giornale di una persona che si è fatto fregare in internet, che ha ordinato un orologio e poi non l'ha ricevuto, che ha compiuto un reato, uno legge sul giornale e la tendenza è quella di dire ma questa persona è sciocca, oppure sono cose che fanno solo gli ingegneri super specializzati. Per quanto riguarda gli errori, non è vera né l'una né l'altra delle situazioni. L'uso diffuso di internet e dell'uso del computer ci porta in moltissime situazioni a prendere decisioni veloci, alle quali non sempre, oppure alle quali sempre noi cerchiamo di dare una risposta razionale, ma a volte il nostro cervello va in tilt. Per fare questo ho preso un esempio e a sua insaputa utilizzerò Alice, che si è offerta di fare questa cosa, spesso appunto naturalmente, altrimenti non sarebbe mai venuta. che è il classico paradosso di Monty Hall, che è un problema che gli statistici conoscono e che riguarda la scelta razionale che porta ad un errore. La situazione è la seguente, è molto semplice, quindi chiederò ad Alice di seguirmi solo per questa cosa e vedrete come ricorre questa scelta qui. Allora, sei di fronte a un gioco a premi, un classico, vedo che sulla TV, è del 1990 in America, è stato proposto su una rivista di statistiche e è stato risolto da quella che all'epoca era la donna con il più alto quoziente di intelligenza americana riconosciuto, 190 quindi, che l'ha risolto in un attimo scatenando una serie di polemiche. Ma vediamo quali sono le polemiche. Sei in un gioco a quiz, Alice, e ti viene detto, hai tre porte, dietro due delle quali troverai due capre e dietro una porta troverai una bellissima macchina. Ecco, l'ultima volta che l'ho fatto dove vivo in Svizzera e ho dovuto specificare che lo scopo del gioco era vincere la macchina, perché mi è stato chiesto, sono precisi, però è chiaro che lo scopo del gioco è vincere la macchina. Tu puoi scegliere una porta e le regole sono così. Tu scegli una porta, il conduttore del gioco ha l'obbligo di aprire un'altra porta e è obbligato a domandarti, vuoi cambiare la tua porta? Ok? Ci siamo? Quindi, tu scegli una porta e fin qui tutto funziona bene. Dopodiché il conduttore apre un'altra porta, trova la capra, tu hai scelto, supponiamo, questa, e la domanda è, ti conviene cambiare o ti conviene restare dove sei o c'è la stessa probabilità? Tu come la vedi? È chiaro a tutti il problema? È un po' quello che vedete in televisione con i pacchi, né più né meno. Secondo te c'è convenienza a cambiare a questo punto? Cosa? Qualcuno dalla sala ti dice tanto al 50%, cosa ne pensi di questa soluzione? La macchina è tra 1 e 2. Evidentemente la macchina è tra 1 e 2. Per questo dalla sala probabilmente dicono tanto al 50%. Lei? La cambio. Perché? Perché tanto so già che in quella porta non c'è la macchina. No, non lo sai. Ah. Tu hai scelto la 1, okay. Tu hai scelto la 1 e il conduttore ti dice vuoi cambiarlo o no? E quindi tu devi pensare, mi conviene cambiarlo oppure no? Mi do io una soluzione, cambiandola ho il doppio delle probabilità di trovare la macchina. Perché ho il doppio delle probabilità? Se mi switch per favore sulla versione italiana di Wikipedia, che c'è lo schema sì. Di fianco qua dovresti andare su, scusami. Sì, scrollare e poi andare sulla versione italiana. Vedo. No. Adesso? No. No, sei passato a termini. Devi tornare indietro. Ah, scusa. Ok. E vai sulla versione italiana. Che c'è uno schema. Conviene cambiare. Perché conviene cambiare? E dov'è che il cervello, il nostro cervello di tutti, adesso io faccio quello che sa la soluzione, ma quando me l'ha fatto la prima volta, evidentemente, vabbè, non ho chiesto se dovevo vincere la macchina, no, fin lì ci sono arrivato, ma evidentemente ho fatto lo stesso ragionamento che avete fatto voi. Dov'è che il nostro cervello non codifica l'informazione? Il nostro cervello non codifica l'informazione quando cambia la prospettiva date le condizioni. E dov'è il cambio di prospettiva? Il cambio di prospettiva che non viene codificato dal nostro cervello è che mai più il conduttore aprirà una porta dove c'è dietro la macchina. E a quel punto la mia scelta è basata su un presupposto che è ormai vecchio. Il nostro cervello va in tilt 9 volte su 10, l'ha risolto chi? La persona che in America all'epoca aveva un quoziente di intelligenza 190, che è una cosa strepitosa. Dov'è che si blocca il nostro cervello? Non riesce a codificare la novità. Ma vi domando, se non riesce a codificare la novità in una situazione come questa, che non è veloce, riesce a codificare le novità che vi vengono proposte di cambio di situazione in internet? Un acquisto su eBay? Qual è il meccanismo? A un certo punto io mi dimentico di quello che compro perché voglio vincere l'asta. E ho visto gente che si porta a casa delle cose assurde, ho vinto l'asta. Allora, cosa sta succedendo? Che i meccanismi tipici di questo tipo, il nostro cervello è come un tilt, non riesce a codificare tutte le variabili, non riesce a risettarsi sulla nuova situazione. Nella vita normale noi facciamo valutazioni di rischio tutti i giorni, voi non ve ne rendete conto, ma tutti i giorni. Tanto è vero che quando andate in una grande metropoli venendo da Bolzano che è piccola, tutti hanno un po' l'ansia, oddio lo zainetto, oddio il portafoglio, perché? Perché valutiamo un rischio maggiore o quantomeno sconosciuto. Si dice in questo caso che il maggiore dei danni non ci deriva da quello che non conosciamo, ma da quello che conosciamo e non è vero. È assolutamente vero. Questa è una frase celebre di uno scrittore americano, i danni ci vengono da quello che noi conosciamo, ma che non è vero. In questo caso io conoscevo una situazione che non era vera. Perché? E adesso te lo dimostro, perché Alice non è, si fa mica convincere così facilmente. E dice, sì, tu parli, però adesso mi devi convincere che avevo il doppio della possibilità. Supponiamo che io abbia scelto una porta con una capra. A questo punto, nell'altra porta aperta, c'è una capra. Se cambio, vinco sicuramente l'auto. Una possibilità. Supponiamo che io abbia scelto sempre una porta con dietro una capra. Se cambio, vinco l'auto. Due possibilità su tre. Se ho scelto invece quella con dietro l'automobile e cambio, vinco la capra. Una possibilità su tre. Ho il doppio delle possibilità esatto cambiando, quindi mi conviene cambiare. Ripeto, poi andiamo oltre, non è questo l'obiettivo di questa serata. Il nostro cervello non codifica la differenza. Se noi non riusciamo a codificare in e lo facciamo in un ambiente, cioè vi ho spiegato le regole, pensate alla difficoltà di codificare le differenti situazioni in internet, dove con un clic sono proiettato da un'altra parte. Vado su un sito e sono proiettato ovunque. Non capisco quali sono le informazioni che compaiono, non capisco perché vengono mascherate, se sono in un sito sicuro o in un sito non sicuro. Oppure, banalmente, innesco un meccanismo di asta online per cui alla fine mi porto a casa un negozio che al negoziante qua sotto pagherei 2 euro, me lo porto a casa per 100 euro. Quando, per ritornare al nostro esempio di prima, quando poi torno a casa e lo vedo sul giornale che è capitato un altro, dico, mamma mia, ma questo proprio... arriva due neuroni scarsi in testa, perché non si fa a fare una roba del genere. E attenzione, questo succede velocemente anche quando poi compio un'azione che viene poi inquadrata nel diritto penale. Il meccanismo lì è un altro, non capisco che dietro c'è un pericolo, non capisco, non percepisco che il mio comportamento mette a repentaglio me o mette in pericolo o è lesivo verso l'altro, perché c'è la facilità di fare un click. Io, preso da una mania tecnologica molti anni fa, avevo detto, a me piace vivere in montagna, faccio tutte le riunioni online, banale, più bello di così, risparmio, sono ecologico, sto a casa mia, finita la riunione vado in montagna, perfetto, no, è perfetto per nulla, perché il meccanismo relazionale di una riunione di lavoro online è un altro. Se io con la vostra direttrice ho un problema da discutere, un conto è se io vengo qui, vedo se gli propongo una cosa, interpreto il linguaggio del corpo, interpreto molte sfumature. Se sono online via Skype la sento sola, posso chiudere la riunione convinto che lei è contenta, che le cose si fanno, ma non è così. E in più, mascherato dal video, mentre io sono in braghette corte e ciabatte, posso avere un'attitudine a rischio molto maggiore, per cui lei mi propone una cosa e dico, sai cosa, ma sì, va bene. Insomma, in dialetto trentino, perché come avete capito dal mio accento, che culo, qui venendo all'estero, vengo da Trento. Anche loro due tra le altre cose. E concludo con questa affermazione, insomma, con questo, ponendo l'attenzione su questo fatto. Molto spesso si confonde questo tema come un'abilità tecnica. No, non è un'abilità tecnica, è un insieme complesso di competenze, di abilità, che in questo periodo vede una dicotomia tra i nativi digitali e gli immigrati digitali, che saremo noi, oltre una certa data. È un periodo storico. I nativi digitali tendono a confondere quello che si può fare con un click con quello che è lecito. Cosa che, se trasportate nella realtà, vuol dire che al supermercato, visto che la mela è lì, entro, me la mangio, deposito il torso e saluto la cassa. Lo hanno codificato che questo comportamento nella vita reale non funziona. Quando però scaricano la musica, fanno la stessa identica cosa, non passano neanche la cassa e non salutano, scaricano e basta. Quando poi la polizia postale gli fa notare che forse il concetto di copyright prevede il pagamento di qualcosa, cadono dalle nuvole e dicono, ma come? Era lì, ho cliccato. Se non era possibile, qualcuno me lo doveva proibire. Gli immigrati digitali, invece, che saremo noi, oltre una certa età, hanno il problema di capire tecnicamente come funziona, quindi hanno un problema inverso tante volte. Hanno il click non così facile e non riescono a inquadrare bene le cose. Da questa situazione, che spero di aver spiegato, è nata l'idea con Silvano Marchi di scrivere un libricino con 5 sentenze. E come dico spesso, è frutto di molte richieste e di nessuna richiesta dei due gruppi. Gli immigrati digitali ci chiedevano, ma dai, voi che lavorate nel settore, dammi una guida, buttami su qualcosa. I nativi digitali dicevano, una volta che sono capace di entrare in un sito, cosa mi devi spiegare? E da qui è nata l'idea di selezionare 5 sentenze e di ribaltare all'uso dei non professionisti del diritto l'organizzazione, ossia partire dalla descrizione del fatto, molto semplice e molto breve, con il solito Cazio, cioè il tizio conosce Kaya in rete e poi diventa amico e diffonde il numero, e a fronte di questo, che è capibile, l'abbiamo ridotto veramente all'osso, vedere che dietro c'è il diritto penale, vedere che un giudice ha condannato al risarcimento a 15.000 euro, poi lo vedrete, i genitori, perché sono sempre minorenni, vedere che un giudice ha deciso che un minorenne doveva rinunciare al computer, al telefonino, stare in casa e dedicarsi ai servizi sociali, che molti genitori dicono sarebbe una cattiva idea, ma a fronte di una denuncia penale, quindi dell'intervento del giudice, si può fare anche senza intervento del giudice, secondo. E appunto i nativi digitali restano una volta a bocca aperta e dicono: ah, allora capiscono che dietro c'è una serie di norme. Per ritornare alla frase, e concludo davvero, che citavo prima, che nella nostra vita i danni maggiori ci vengono da quello che conosciamo è sbagliato. L'intento di questo brevissimo libro è quello di dare almeno 4-5 dritte sicure, per cui in tema di diritto nuove tecnologie, i nativi digitali e gli immigrati sappiano che alcune cose sono certe e ci sono e non ricadano nell'errore, ma soprattutto cercare di capire che quando li leggete sul giornale non sono dei fessi quelli che si fanno mandare a casa l'orologio, sono la versione digitale di quelli che tanto tempo fa all'autostrada compravano il videoregistratore con dentro il mattone. Ecco, solo che in questo caso il meccanismo è un po' più complesso, e se è vero che questo è un mondo virtuale, io ho visto tante persone che i danni li hanno avuti, sì, ma non virtuali, erano danni reali. Grazie. Buonasera a tutti, adesso vediamo di fare una cosa quasi scientifica. Forse di qua. Il microfono è un po' particolare, bisogna spingere. Ah, è. Perché pesa un caso, non è un caso. Grazie. Allora, cercherò di essere molto sintetico. Già i problemi tecnici si vedono da qua. Allora, vorrei iniziare brevemente citando un brano del professor Galimberti, che secondo me è abbastanza rappresentativo di quello che un po' tutti noi percepiamo del mondo digitale. Allora, il professore dice: la rete è un mondo, quindi qualcosa di radicalmente diverso da un mezzo. Prima si parlava appunto, ma il computer è un elettrodomestico. No, non è un elettrodomestico, non è un mezzo, è un mondo, appunto, perché a differenza del mezzo che ciascuno di noi può impiegare per i fini che sceglie, col mondo non si dà altra libertà se non quella di prendervi parte o starsene in disparte. Quindi con Paolo, quando abbiamo deciso di scrivere questo libretto, ci siamo posti proprio in quest'ottica, a dire: la rete, internet, i social network, eccetera, rappresentano non semplicemente uno strumento comunicativo, un mezzo, un telefonino o altro, rappresentano un mondo, e per muoversi in un mondo forse possono essere, anzi, necessarie delle coordinate, e forse noi abbiamo cercato nel limite del possibile di dare qualche piccola indicazione, soprattutto ai giovani, perché quello è il nostro obiettivo, il nostro target di riferimento. E in particolare abbiamo cercato, insomma, di avere come riferimento, come orizzonte operativo, due principi che dovrebbero guidarci secondo noi nel muoversi in questo mondo che è la rete. Il primo è un principio di prudenza. Il principio di prudenza in una doppia accezione. Innanzitutto, la prudenza, da non confondersi evidentemente con la paura, è una virtù, che è quella che ci fa, permettetemi il termine un po' colloquiale, star su con le orecchie, stare attenti. Io sono prudente, devo essere attento, come diceva giustamente Paolo, alla truffa, all'inganno, a ciò che mi propone la rete con estrema facilità. Ma soprattutto noi abbiamo cercato di recuperare quello che forse è il significato più profondo del termine prudenza, che è forse il significato che noi spesso ci dimentichiamo. Cioè il termine, la radice proprio latina del termine, cioè il termine prudentia, che prima di tutto vuol dire conoscenza, che vuol dire consapevolezza. non solo dell'aspetto puramente tecnico, ma delle conseguenze che posso avere nell'utilizzo di questo strumento. Collegato a questo, evidentemente, l'altro principio che noi abbiamo cercato di avere sempre presente nella redazione di questo libretto è il principio di responsabilità. Ovvero, siamo davanti a un monitor, facciamo una serie di operazioni, crediamo di essere davanti a un simulatore. Io uso spesso questa immagine, pensiamo di fare una gara con le macchinine, poi a un certo punto succede l'incidente, ma l'incidente è reale e l'incidente è il comportamento che provoca un illecito o comunque un comportamento giuridicamente rilevante. E allora noi in qualche modo ci svegliamo e diciamo: ma come? Quello che abbiamo fatto fino adesso non era un gioco, non era una simulazione, ma è qualcosa che ha una conseguenza reale nella nostra vita. Quindi, tenendo presente questi principi, cioè il principio appunto di conoscenza della rete e di conoscenza delle conseguenze, delle responsabilità collegate all'utilizzo delle nuove tecnologie, abbiamo cercato di prendere a riferimento, partendo proprio da casi reali, come diceva prima Paolo, abbiamo evitato, anche perché ce ne sono già molte pubblicazioni di questo tipo, la trattazione diciamo accademica, cioè la trattazione del reato in generale o della responsabilità civile nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Abbiamo cercato appunto di partire da Tizio conosce Caia e succede questo e questo. Prendendo a riferimento innanzitutto i fatti più frequenti, che anche dalla semplice lettura dei giornali troviamo, quindi abbiamo fatto riferimento a comportamenti, il primo appunto ne accennava già Paolo, alla diffamazione su Facebook, un caso di cyberstalking, cioè di diciamo comportamenti reiterati che hanno... che provocano disagio e paura nella vittima di questo comportamento, quindi atti che hanno sfondo delle molestie, lo scambio di video a contenuto sessuale tra soggetti con il telefonino e lo scambio di identità. Questi sono, diciamo, quelli che abbiamo fatto riferimento in particolare a pronunce della Corte di Cassazione, quindi pronunce sul diritto, quindi pronunce di legittimità, quindi non in qualche modo abbiamo fatto riferimento a queste perché il giudice di Cassazione in qualche modo, se vogliamo per approssimazione, fissa un principio e quindi ci è sembrato opportuno prendere i riferimenti giuridici appunto da pronunce del giudice. E attenzione, nello stesso tempo noi abbiamo voluto partire dal caso, vedere come è stato analizzato dal giudice e correlare ogni caso anche di un minimo di apparato, diciamo, normativo, ma anche di alcuni consigli su come non cadere negli stessi comportamenti che sono stati sanzionati dai giudici. Per non rubare troppo tempo al dottor Berti, sintetizzo solo la prima sentenza, che forse è quella più rappresentativa per certi versi, benché sia, ci tengo a precisarlo, ancora una sentenza di primo grado, cioè abbiamo al momento soltanto la decisione di un tribunale. Però è una sentenza che ha fatto abbastanza scalpore, perché è il primo caso di diffamazione su Facebook. E questa è una cosa che, diciamo, capita forse statisticamente in modo più frequente. Però qui cosa è successo? C'è stato un giudice che ha detto: no, fermi, questo non è accettabile, a fronte di una denuncia di una ragazza che aveva iniziato una relazione appunto online con un altro ragazzo, poi le cose diciamo non sono andate avanti. A un certo punto il ragazzo, dopo aver detto lasciami stare, lasciami in pace, eccetera, eccetera, un giorno sul proprio profilo, sul profilo della ragazza pubblico, ha fatto una serie di commenti su un handicap della ragazza che riguardava una grave forma di strabismo e sulle, diciamo, su alcune preferenze sessuali, diciamo, della ragazza. Questo ha provocato nella ragazza una serie di turbamenti, ha dovuto rivolgersi allo psicologo, eccetera, eccetera. È stata fatta una richiesta di risarcimento danni che ha portato al pagamento di 15.000 euro a titolo di danno morale. Ora, quindi, da un comportamento che noi notiamo essere un comportamento, attenzione, uso il termine normale nel senso non che sia accettato, ma nel senso che purtroppo capita abbastanza spesso. Noi vediamo, andando in Facebook o in altri social network o in internet o nei blog, eccetera, il linguaggio è a volte anche pesante, i contenuti fake ce ne sono tantissimi. Considerazioni volgari, considerazioni pesanti, apprezzamenti e altro. Questi comportamenti in questo momento hanno avuto, a fronte chiaramente di un patimento della vittima, diciamo, di questo comportamento, è stato duramente sanzionato dal giudice, che ha detto no, questo non è accettabile. Questo comporta il reato di diffamazione e a titolo di danno morale sono stati risarciti, è stato previsto un risarcimento di 15.000 euro. Per cui, da questo caso noi abbiamo un po' riflettuto sull'utilità di cercare di offrire appunto ai giovani e anche ovviamente ai genitori una mini guida per dire attenzione, queste sono le cose che sono successe e non è pura teoria, perché vi dimostriamo che il tal giudice nel tal momento con la tal pronuncia ha detto questo, ha fissato questo, ha stabilito quest'altro. Quindi un comportamento assolutamente reale. Ecco perché la nostra scelta non è stata quella appunto di fare un libro in generale sui reati di internet, ma cercare appunto di vedere cosa è successo e come il giudice si è comportato. E abbiamo scelto appunto in prima battuta quello che viene definito dai giuristi il diritto vivente, cioè quello che diciamo emerge dall'applicazione fatta dai magistrati della normativa, per cercare proprio di creare quel senso forse di cautela, di attenzione, ritorno al discorso di prima, di prudenza, nel dire quello che faccio, quello che scrivo, seppur lo sto scrivendo davanti a un video, ha delle conseguenze reali, ha delle conseguenze gravi nel mondo reale. Per cui io devo partire dalla consapevolezza che ciò che io faccio ha delle ricadute molto pesanti, o di tipo, si diceva prima, di tipo penale, nei casi più gravi, o di tipo anche civile. Quindi, a me viene sempre in mente, quando abbiamo selezionato anche un po' le sentenze analizzate, un po' l'immagine, forse qualcuno l'aveva vista, un film di qualche anno fa, Un pesce di nome Banda, in cui a un certo punto si vede alla fine questa immagine di questo brillante killer della CIA che prende in giro il suo avversario, che invece è salito su una lentissima schiacciasassi, che avanza lentissimo e si dice tanto non mi prenderà mai. E in realtà poi succede un imprevisto e questo viene schiacciato. Ora attenzione, l'immagine non vuole essere questa della giustizia schiacciasassi, vuole essere semplicemente questo, far capire al giovane che è sempre abbastanza disinvolto, diciamo, davanti alla rete, io sono furbo, a me non succede niente, anche se sa che il suo comportamento può provocare delle conseguenze, o addirittura, ancor peggio, quando compie degli atti ma non si è neanche curato di pensare alle conseguenze. Però queste pronunce ci fanno capire che la macchina della legge e dei giudici, la macchina quindi normativa in generale, procede magari apparentemente in modo lento, però procede, e il rischio di rimanere appunto schiacciati è molto alto. Per cui il nostro intento chiaramente non è e non vuole essere quello di creare una paura e quindi la paralisi del giovane davanti al computer, nel dire oddio adesso se schiaccio qui, compro là, faccio lì, scrivo una cosa sul blog, mi può succedere chissà cosa, però quantomeno creare quel momento di sospensione, di attesa, nel dire cosa sto facendo. Per noi, nel momento in cui un giovane, leggendo il nostro, la nostra pubblicazione, o tutte le altre pubblicazioni che ci sono in giro sull'argomento, riusciamo anche in un solo giovane a creare questo momento di, appunto, di sospensione, fermare quella fretta che è tipica del dire adesso clicco, vado avanti, vado veloce, scrivo, mi esprimo perché quella è la mia preoccupazione principale. Nel momento in cui siamo anche riusciti con questa pubblicazione a provocare questo in un giovane, per noi l'obiettivo è stato, sarebbe abbondantemente raggiunto. Vi ringrazio moltissimo. Beh, è difficile aggiungere qualcos'altro, però volevo mettere qualcosa un po' di personale in tutto questo e legato anche un pochino a quella che è la mia attività lavorativa, no? Lavoro nella polizia e quindi questo è il contributo che posso dare. E diciamo una cosa, nonostante faccia parte delle istituzioni, io sono convinto che la cultura sia l'elemento vincente nell'utilizzo di qualsiasi strumento e in tutti i percorsi della vita che facciamo. La cultura viene ovviamente dalla nostra formazione, dalla nostra informazione. Per utilizzare la rete, probabilmente la cultura ci deve consentire di far crescere un elemento un pochino nuovo. Io lo definisco, ma credo che facilmente lo condividiamo tutti quanti, il senso critico, no? Quindi la capacità di osservare con criticità le cose. Ecco, il testo che hanno scritto i miei amici, posso permettermi di dire, contribuiscono a fare chiarezza in alcuni aspetti, cioè dicono attenzione, determinati comportamenti che magari noi li facciamo con noi internauti, quindi a tutte le età, no? Li facciamo con leggerezza o in modo meccanico, non è detto che siano corretti. Magari possiamo approfondire un pochino la cosa e dire corretti sotto un aspetto giuridico, va bene, ma magari anche corretti sotto un aspetto etico, ok? E quindi questa è la sua importanza. Dobbiamo capire una cosa, la rete no, non è più un sistema di comunicazione, è così, dobbiamo prenderne atto, è un grande contenitore di contenuti, ok? E questo è un primo elemento, quindi contiene tanti contenuti diversi. La rete è la replica, fra il resto, perfetta del mondo reale, no? Cioè tutto il bene e tutto il male che c'è nel mondo reale c'è ovviamente anche nella rete, identico. Però c'è una differenza abissale, no? Perché se una persona che abita, che ne so, a New York vuole truffare nella vita reale, trufferà quelli di New York. Ma se quello di New York utilizza la rete per truffare, può benissimo truffare qui a Bolzano. Quindi tutto è raggiungibile con grande semplicità, con un click, e fa sì che se la nostra preparazione di internauti non è elevata nell'utilizzo di quello strumento, ma più che altro del senso critico, nell'intravedere le problematiche, ovviamente questo crea un disturbo più grande. Allora, dicevo prima, tutto raggiungibile con un click, no? Click prendo. Però noi non dobbiamo confondere il fatto che la tecnologia, la rete, internet, le reti di comunicazione mi consentano una cosa e il fatto che sia legittimo fare quella cosa. Io faccio, spesso tengo incontri con i ragazzi, no? E faccio un esempio, forzandolo un po', nel mondo dell'autovettura, no? Che loro lo capiscono bene, e dico sempre, attenzione, io ho una macchina, la mia macchina è una Porsche, non è vero, tranquilli, però dico, la mia macchina va ai 250 all'ora, ma io posso fare i 250 all'ora sulle strade o autostrade italiane? La risposta ovviamente no, quindi la tecnologia mi consente delle cose, ma in realtà io devo fare cose in rapporto alla mia preparazione, alla mia conoscenza, alla mia informazione, al mio senso critico, la capacità di analisi. Mi è piaciuto molto quel passaggio prima dove diceva, attenzione, la valutazione del rischio. Ecco, questo testo va in questa direzione. Ci consente di fare degli esempi pratici che nella rete funzionano regolarmente, ci sono facilmente. Cioè, io posso farvi mille esempi di ragazzi che magari su un profilo di Facebook parlano male, convinti di sfogarsi nella loro cerchia di amici, no? Quindi all'interno delle loro conoscenze, magari del professore che gli ha dato una valutazione negativa o non prevista della verifica del tema, eccetera eccetera. Dicono: ah, la professoressa di inglese è veramente scema per questo e questo motivo. Magari hanno anche ragione, però comunicare quella cosa a quella alla società, ai miei amici, in quel modo non è come trovarsi nel cortile e dirselo vis-à-vis. Questo è il passaggio che dobbiamo capire. Posso farvi l'esempio che esula leggermente da quelli inseriti qui, ma che hanno avuto risvolti lo stesso negativi. Apro il giornale e a Treviso vedo che una signora è stata licenziata perché proprio sul profilo di un social network aveva parlato male del datore di lavoro, perché a suo giudizio aveva fatto delle cose non giuste. Quindi si confida su Facebook con i propri amici, immagino io, quell'informazione esce e quindi ne arriva un licenziamento con giusta causa. Attenzione. Quindi questi strumenti hanno una potenzialità incredibile e dobbiamo capirlo. Dobbiamo capire che i nostri giovani devono usare questi strumenti. Attenzione, non è che perché questi strumenti sono potenti, sono difficili da capire, non devono utilizzarli. No, i ragazzi che non utilizzano questi strumenti sanno altro nella vita. Il competitor di questi ragazzi non è il loro compagno di banco solo, è in Cina e in India il competitor di questi ragazzi, perché devono imparare a utilizzarli questi strumenti. La vita che aspetta loro, fuori dal mondo scolastico eccetera eccetera, è diversa da quello che ha aspettato noi, per cui devono utilizzare questi strumenti, ma è chiaro che devono metabolizzare una serie di informazioni, anche giuridiche, ma etiche, di comportamento, nell'utilizzo di quello strumento. Quindi ci devono nutrire di quello strumento, ma devono capire le potenzialità che questo strumento ha. Questo libro, a mio giudizio, va in quella direzione: caso pratico, approfondimento, dettato giuridico, esito delle sentenze anche di Cassazione in molti casi. Ecco, questa è una cosa un pochino da metabolizzare, come si vuol dire, deve entrare nel nostro DNA pian piano, ecco. E per questo io dico grazie e sono contento di averlo potuto leggere e avere in anteprima, e sono veramente contento. Vi ringrazio davvero. Grazie. Se posso aggiungere una cosa in un minuto, e mi ricollego a quanto dicevi. Io vengo dal mondo della... faccio il libero professionista, ho una mia piccola attività, ho costruito software, mi avvalgo di specialisti dell'informatica. Non ha una volta ragione Mauro Berti quando dice: il vostro competitor non è dietro l'angolo, il vostro competitor è in India, è in Cina. Sapete cosa succede alle società che sviluppano software? Succede questo, che prendono la commessa, quindi il lavoro, il software, il programma da sviluppare, lo prendono in Italia e poi si trovano di fronte a una scelta: affido il lavoro ad uno sviluppatore, un ingegnere italiano, o affido il lavoro a uno sviluppatore indiano. Se il truffatore può truffare da New York a Bolzano, io da Trento posso prendere un programmatore indiano. Qual è la discriminante? È che sta il nostro competitor della nostra società, che sta diventando opulenta e pigra sotto alcuni aspetti, è una persona competente, affamata, che lavora meglio e a costi minori. Quindi cosa fa l'imprenditore informatico? Io parlo per me, ma so benissimo che anche grosse realtà fanno così. Va in un sito come questo, che è, attenzione, questa è la cosa importante, è veramente preciso quanto dicevi, è un social network che serve per lavorare. Però in premessa dicevi, è vero, chi è fuori da questo meccanismo, chi non sa usare Facebook, è out, sì, perché il meccanismo di Facebook, il mi piace di Facebook, è il meccanismo del mi piace di freelancer, ma freelancer è costituito da migliaia di persone che offrono i propri servizi e che sono in India e che sanno gestire bene la loro personalità in internet, che non si fanno diffamare, che non fanno errori, che sanno costruire la loro identità e spendersela per lavorare. Questo è il vostro competitor. Se voi pensate che il vostro competitor sia a Lives o a Salorno o male che vada a Trento, avete sbagliato tutto. E altra cosa giustissima che condivido al 100%, vi aspetto una realtà che è differente da quella che abbiamo affrontato noi, nel bene e nel male, soprattutto nel bene, perché siete giovani. ma ha bisogno di skill e uso per forza, cioè uso volutamente questa cosa perché ci porta nella globalizzazione, ha bisogno di capacità che sono complesse, sono nuove rispetto alla formazione che avete e qui entra in campo la cultura. Chi si tiene fuori dai social network non saprà né come imprenditore prendere un libero professionista, e possiamo farlo velocemente. Quanto ci metto a prendere un programmatore che mi fa un sito web? Ci metto esattamente un attimo. Mi dicono: cerca un libero professionista. Cosa vuoi che faccia? Website? Ok. Vuoi che faccia website? Perfetto. Questa è la lista delle persone che fanno website. Guardate le bandierine. Vedete quella italiana? Per caso? No. E cosa vedete di fianco? Vedete il ranking, che vi dice quanto ha guadagnato e qual è il grado di soddisfazione dei clienti che ha avuto in internet. Ecco, è un'altra cosa. Qui sono sulla piazza mondiale. Io uno lo frego, due li frego, ma il terzo, con lo stesso meccanismo che ho col mi piace in internet, è uno strumento di potentissima autopromozione o autodistruzione, perché al quarto che frego in internet io da questa piattaforma devo venire via, e se c'è un minimo di contatto c'è, perché è una piattaforma seria, di controllo, che il professionista poi non cambia identità, io qui sono fregato. E qual è il meccanismo sottostante a questo mondo? È quello dei social network, che voi adesso usate per gioco, ma saranno lo strumento che, se imparate a usarlo con senso critico, certo, usando il senso critico, ponendovi la domanda di dove siete, vi consentirà di lavorare. E questa è la premessa, attenzione, su questo vorrei essere chiaro, io vengo dal mondo del lavoro, questa è la premessa, ma è il minimo sindacale, cioè non è che voi siete avanti rispetto al mondo, è il minimo sindacale che riguarda tutta la nostra vasta Europa. Io non ho difficoltà ad ammettere che per alcuni lavori usufruisco di programmatori ucraini che sono bravissimi, sanno bene l'inglese, capiscono quello che devono fare, lo fanno nei tempi stabiliti e chiedono in rapporto 1 a 10 da un programmatore che io posso prendere qui in zona, ammesso di trovarlo con quelle competenze, ma a parità di competenze è più preciso, è più bravo, è più preciso, conosce bene le lingue, conosce gli aspetti tecnici, e io usufruisco di questi programmatori ucraini. Essendo un social network, quindi mi può dire: ma dove li vuoi cercare questi programmatori? Hai qualche preferenza? Io di solito dico sì, perché mi sono trovato meglio con i programmatori ucraini. Qualcuno di voi usa gli acquisti online? Bene, io posso usare il meccanismo delle aste, ho un progetto e dico: sentite, io per questo progetto di sito internet offro $200 e faccio un'asta, bid a job. Chi ha più fiamme vince. Lo vince in India? Ok, io ti do $200, è affar tuo se con quei $200 vai in perdita o meno. Io redigo le specifiche e poi tu lo fai. Doppia competenza, che siate da una parte o che siate dall'altra, che diventiate imprenditori e che vi serva questa cosa per lavorare, o che diventate lavoratori e vogliate fare, la base di conoscenza è quello che voi adesso usate per giocare. Escludervi, e è una cosa che non capisco e continuo a non capire, e ne vedo tanti, e dar retta ai venditori di paure che vi dicono: ah, vi metto il filtro, vi controllo, non vi faccio giocare, è mettervi il piombo nelle ali e favorire i competitor. Guardate le bandierine: India, Filippine, Vietnam. Questo ha un 8,6 e posso vedere 357 review, cioè questo è entrato in contatto con 357 persone che dicono la loro: bravo, puntuale, conosce poco la materia. E questa è la piazza virtuale. E attenzione, non sto parlando di fantascienza, questa è la realtà di chi sviluppa software oggi in Italia, oggi in Europa. Questi sono i vostri competitor e questa è la sfida. E io spero, e ringrazio dei complimenti e soprattutto ricambio l'amicizia reale, questa volta non in Facebook, con Mauro Berti, esatto. Accetto l'amicizia molto volentieri e con profonda stima, perché è quello la volontà che ci ha spinto a scrivere un libro, e è anche quella, nel nostro piccolissimo, infinitesimamente piccolo, di restituire alla rete quel tanto che abbiamo preso, e noi abbiamo preso tanto. La rete funziona se qualcuno, oltre che prendere, dà anche in maniera gratuita, e so che è una goccia nel mare, ma insomma è sempre meglio di nulla. Ci sono domande? Mi ero dimenticato di ringraziare Alice, poi sei stata brava. A me interessava un po' la gestione delle foto, perché su Facebook in particolare le persone mettono foto dei momenti di vita privata, personali, i ragazzi in particolare documentano ogni momento della giornata, anche se non ci vede. Quali rischi ci sono? Io posso rispondere velocemente citando Mauro Berti, che ha dato una definizione perfetta. In un incontro ha detto, è chiaro che in una piccola città come questa, ad un incontro con le scuole, qua dentro voi non lo sapete perché non avete percezione del futuro, ci sarà il futuro sindaco o candidato sindaco o una personalità di rilievo all'interno dell'ospedale, farà il primario, farà la sua carriera. Pensate che le foto che vi sembrano adesso simpatiche della festa nella quale ballate mezzi nudi ubriachi saranno funzionali alla vostra carriera? Pensate che questo sia solo un gioco? No, non si tratta di questo, correggimi se ho interpretato bene la tua risposta, che cito peraltro sempre con la fonte, che quello è un altro problema di chi prende le cose in internet, aperta e chiusa parentesi, non citare le fonte ha fatto sì che il ghostwriter del politico Fini citasse, facesse la stessa citazione fatta da Veltroni 2 anni prima, sbagliandola fra il resto, senza citare la fonte, e questo è un problema di ghostwriter, di gente che copia e incolla senza... In Germania il copia e incolla è costata è costato il posto di esatto, di ministro degli esteri a un ministro, è costato il posto perché aveva tagliato e incollato. Per ritornare ai giorni nostri, il comico famoso che si chiama Crozza ha copiato delle battute da internet e adesso lo chiamano Crozza e incolla perché la rete è micidiale da questo punto di vista. Per ritornare alla risposta, questa è la costruzione dell'identità virtuale, è una questione di educazione. Come ti costruisci la tua identità nel gruppo di amici, ti devi stare attento a costruire un'identità aderente al tuo essere con una accortezza. Se la tua identità qui a Bolzano non ti piace, prendi e vai in un'altra città, a Monaco, e inizi un'altra vita. È permanente la tua identità, e lo stiamo vivendo adesso. Fra 10 anni qualcuno ti rinfaccerà che sei candidato sindaco con un certo programma, però a 16 anni hai postato 200 foto in cui balli nudo in 200 feste diverse. Spero di aver risposto citando correttamente la fonte. No, indubbiamente. Lascio la parte più giuridica a chi conosce meglio di me probabilmente l'aspetto giuridico. Vi volevo far riflettere su una cosa che secondo me è la tematica della rete. E si può partire proprio dalle fotografie. Esistono due identità. L'identità anagrafica la conosciamo tutti, è una, unica, la stessa. Mauro Berti, alto uguale, capelli non ne ha, sposato, separato, codice fiscale, è quella. Quell'identità, man mano che io cambio le amministrazioni, è sempre la stessa. Ho la patente, è sempre la stessa identità. Il mio datore di lavoro ha sempre la stessa identità, non è che sono più alto, più basso o il colore dei capelli diverso, eh? Quindi sempre la stessa. Poi esiste l'identità digitale. Che cos'è? È quello che la rete dice di me. È quello che la rete dice di me. Quindi voi oggi per esempio mi avete conosciuto, no? Vi siete fatti un'idea di me, no? Quindi bella, brutta, è lo stesso, vi siete fatti un'idea di me. Poi andate in rete, digitate Mauro Berti, magari ci attaccate anche polizia così siamo certi di pescare proprio quel Mauro Berti, ed esce fuori, guarda, vi faccio un esempio banale, il mio profilo di Facebook, dove ho postato delle fotografie di una festicciola fatta ieri, un mese fa, è lo stesso, dove sono palesemente ubriaco. Attenzione, non ho guidato, sono venuti a prendermi, sapevo che non dovevo guidare e quindi ho bevuto un bicchiere in più perché mi andava di bere un bicchiere in più. Fotografia è su quel profilo. Poi magari ci sono anche dei commenti su quel profilo, cattivi, o anche magari di questa serata cattivi. Voi pensate che Mauro Berti è questo che avete conosciuto o è quello della rete? Guardate che sempre più spesso un datore di lavoro adesso digita il nome delle persone che deve assumere prima di assumerle. Io parlavo con un grosso lavoro a Trento, naturalmente, per cui solitamente lavoro in quell'ambito, no? Tenevo una formazione di fronte a una grande azienda a nord di Trento, 300 dipendenti. L'amministratore delegato mi porta a bere un caffè e mi dice durante la pausa: ma lo sai che noi dovevamo assumere un giovane? Abbiamo fatto il casting, lo ha chiamato uno, e quello che aveva il percorso scolastico migliore di tutti quanti, e si era presentato bene, lo abbiamo scartato perché la rete parlava male di lui. Guardate che parlava male di lui, magari c'era scritto soltanto che era iscritto al Partito Comunista e l'amministratore delegato invece chiaramente di destra, magari era questo, attenzione! Ma la nostra identità digitale, che è frammentata, è fatta da tantissime cose che sono contenute in quel contenitore di contenuti. E naturalmente in futuro l'identità digitale avrà sempre più peso. Ecco perché immagini, commenti su forum, su blog, devono essere soppesati. Fra il resto, e qui poi mi taccio, l'identità digitale è fatta dai dati che io metto nella rete, ma non i dati identificativi, i commenti, quello che penso, e questi li gestisco io, ma poi è data da quello che gli altri mettono di me, magari a mia completa insaputa e non lo saprò mai, ma digitando il mio nome emergeranno anche quei dati che io non potrò mai cancellare, mai cancellare. Quindi quel tema diventa di grande attualità, si incrocia poco con il diritto, se non con l'opportunità, con la malizia, col senso critico, con la capacità di valutare anche il futuro, e quindi non tanto con le sentenze giuridiche, al di là poi della legge 196, e quindi magari vi verrà fatto un accenno, eccetera, eccetera, no? Ecco, però è il tema del futuro, è il tema del futuro. Se no io parto, Io aggiungo solo una cosa tecnica. È talmente vero quello che dice Mauro che in America il servizio, la società innovativa del 2011 è una società che si chiamava Reputation Defender, adesso si chiama Reputation, che offre servizi di questo tipo. Sei un libero professionista? Loro cosa fanno? Fanno con dei tools il ranking, io ho provato con Mauro Berti ma dovrei mettere la mia mail, fanno la ricognizione di quello che si dice su di te in internet e ti propongono mensilmente una scaletta e ti propongono anche il servizio di buttare dalla lista di Google, buttare in fondo i commenti negativi. Qual è il servizio che offre questa società? Dice: Paolo Gasperi, tu fai libero professionista, non puoi pensare che in internet uno dica che hai fatto una consulenza che faceva schifo o peggio. Hai una tua reputazione, ti offrono a pagamento questo servizio, scandagliano per te la rete, trovano tutti i commenti che ti riguardano dappertutto, te li offrono mensilmente e ti dicono, ti fanno anche un servizio, ti dicono questo è negativo e questo è positivo e ti aiutano a evidenziare quelli positivi, e a portare giù quelli negativi. Qual è il servizio che si pensa che possa nascondere cose di questo genere? È che io possa crearmi artatamente, quindi in maniera fittizia, una reputazione completamente falsa in internet. Perché se questo servizio mi aiuta a far scalare in Google le posizioni negative a un commento, per esempio, negativo, è chiaro che posso anche costruirmi una cosa. E questo all'ordine del giorno. Reputation.com offre servizi ai professionisti che sono la risposta all'esigenza che tu evidenziavi. Comunque, prova, metti Google, scrivi Mauro Berti e ci attaccaci un polizia. Vediamo l'identità digitale come emerge facilmente. Insomma, per capire, che è un esempio veramente banale. Tanto per capire. Quindi il motore di ricerca banalissimo, no? Perfetto, Mauro Berti. Ecco, già viene fuori, attenzione. È già codificato da Google. È già codificato, per cui cliccandoci sopra. Io eviterei incidente morto. No! Che chiaramente codifica. Esce fuori la storia di Mauro Berti nella rete. Capite se lì ci sono informazioni positive, negative. Ma guarda che se digitate il vostro nome perché sei iscritto agli scout, sia la tessera della biblioteca, sia questo sia quello, attenzione! Ci siamo dentro quasi tutti, ci siamo dentro quasi tutti, ve l'assicuro. Io vorrei fare, non dico una scommessa, però provatelo a casa, guardate, e trovate le informazioni. Guardate il link, quello che fare un esempio, no? Io sono ignorante, quindi pensavo di non correre rischi. Anche noi. No, nel senso che dice, proviamo a fare, ho messo nome e cognome, no? Poi, sempre qui con gli strumenti molto controllati, eccetera, ho visto che su Google riportava di un mio intervento ad un congresso, no? Che avevo espresso, mi pare, non so, a proposito della raccolta delle immondizie a Bolzano, dei posti di lavoro, e ho detto, ma secondo me, insomma, ci saranno dei problemi, perché volete togliere 400 macchine, io non ho il garage, cioè, lì dentro veniva riportato questo mio intervento senza che io l'avessi né autorizzato né niente, no? Quindi con Wittgenstein, che è lo strumento più alla portata di tutte le cose, e ho visto, dico, ma quando mai? Cioè, poi mi sono ricordato, sì, in effetti un anno fa sono stato a sto congresso e no, era proposto dei garage di via Fiume, ho detto che non era il caso di rompere l'argine per fare questi garage, ma forse era meglio trovare un altro posto. E stranamente sta notizia è contenuta e lo rimarrà per sempre. Esatto. E lo rimarrà per sempre, sì, perché la memoria della rete è infinita, come l'ho detto. Provi a pensare, no? Si proietti adesso per un attimo, ci togliamo tutti quanti magari un 10, 20, 30 anni, no? Ok, diventiamo giovani di nuovo. Invece che fare un intervento su quell'argomento lì, lo facciamo sulla grandezza del Terzo Reich, d'accordo? Perché non supponiamo questo. Quell'intervento va in rete. Tra 20 anni il nostro datore di lavoro leggerà. Perché l'ha messo in rete questo? Tutto va in rete, tutto va in rete, tutto va in rete. Tutto va in rete. Tutto va in rete. Non è uno strumento, è un mondo. È un mondo. È un mondo parallelo, perfettamente uguale al mondo reale. Ma ci deve essere qualcuno che lo mette in rete. Ma, allora, rete, grande contenitore di contenuti, no? Ricadiamo sempre lì. È chiaro che la biblioteca mette in rete le sue cose. La polizia mette in rete le sue cose. Partecipi a un convegno, metti in rete le tue cose, no? Cioè, ognuno mette in rete le proprie cose, e questi soggetti che mette in questo grandissimo contenitore di contenuti le cose sono milioni e milioni e milioni di tutto il pianeta. No, lei no, ma chi ha organizzato il convegno sì. L'identità è composta di questo, di quello che dice lei, ma di quello che dicono gli altri di lei. Nel momento in cui lei ha si espone al pubblico in qualsiasi cosa, poi quel suo intervento, quel suo contributo al mondo se può essere restituito. Certo. Però poi lei non ha più il controllo, questo è il problema. Lei perde il controllo. E nessuno mi deve chiedere. No, no. No. Bisogna stare attenti quando si va a queste. Anche qui lo dico al limite della diffamazione, ma non sono d'accordo col sindaco, tanto per. Ma certo. Stessa cosa per le immagini, ho sfruttato il tuo nome, online ci sono le immagini che sono facilmente scaricabili, riutilizzabili, ristampabili, ormai non accettano più la copia di un certificato, di un attestato, di partecipazione a un corso, perché in 3 minuti si contraffa il logo, si contraffa tutto, chiedono la referenza diretta, perché con uno strumento di 100 euro mi stampo il logo di un corso fatto ad Oxford e mi autocertifico un corso che non ho mai fatto ad Oxford. E stessa cosa per le immagini. Ho visto un caso, per esempio, di una società di pallavolo bolzanina che mette le immagini delle atlete ad altissima definizione sul sito della società. È chiaro che metterla ad altissima definizione, sono soggetti minorenni, sono in quell'attimo lì vestite da pallavolo, ma in un attimo dopo, in 4 click con Photoshop, Dio solo sa dove vanno. Mi hanno chiesto un consiglio, io ho consigliato: chiedete che le mettano a bassa definizione quantomeno, o in contesti di gioco dove sia difficilmente ma il primo piano in formato veramente grande, addirittura stampabile, è un errore. E chissà che quanto erano convinti di fare una cosa bella, certo, Cioè, certo. Attenzione, pensiamo anche, chiaro, no? Chiaro, società di pallavolo gestita da persone che ci mettono, lo fanno come hobby. Ho visto la mia figlia più giovane, Facebook, eccetera, poi una volta sono andato dentro, ho visto una graduatoria per una partecipazione a un concorso. Vabbè, altro, sì. Assolutamente. Assolutamente. E se invece del cognome... E bisogna sempre mettere l'impiego, se no vengono fuori Mario. No, dipende dal no, la zona anche. Guardi, facevo lo stesso esperimento con una professoressa a Trento, no? Mi dice: io non sono mai stata in internet, cioè quella prova, la cosa, tecnologia per me è distante. Dico: mi dia il nome e il cognome, ho messo dentro il nome e il cognome, ho inserito la professione, no? Oppure inserisci, in quel caso avevo messo insegnante, ma se no metto Trento, perché abita a Trento, e sono venuti fuori il sito degli scout dove lei partecipativamente. Poi è venuto fuori il Dipartimento di Istruzione di Trento, che ovviamente l'ha messa dentro, il Vivo Scuola, che è il sito, bla bla bla, che l'ha messa dentro. Dico, quindi io da queste notizie so perfettamente che questa persona è come minimo impegnata negli scout e poi ha qualcosa di attinente alla scuola, no? Però l'esempio fantastico è quello che ha portato il Signore, no? Cioè, dove dice: io ho partecipato a un convegno, ma provi a pensare se invece che partecipare a un convegno sulla riorganizzazione comunale fosse stato qualcosa di più tematico, magari politico, ma non solo politico, ma anche imbarazzante, magari. Provi a pensare, no? Cioè, quel dato sarebbe stato in rete. Guardate che c'è un diritto sancito dal secondo articolo della Costituzione, assieme ai diritti che abbiamo, che si chiama diritto all'oblio. La rete lo ha massacrato, eh? Certo. Provi a pensare a questo, e poi mi danzo, scusate, un po' così. Allora, Mauro Berti 10 anni fa acquista a rate con Findomestic, non so neanche se esistesse, comunque con Findomestic una lavatrice, d'accordo? Difficoltà economica, non pago una rata, vengo inserito sul libro dei protesti, si chiama? Ok? Il libro dei protesti va in rete. Il mese dopo pago la rata, ok? Quindi a posto. Quella notizia rimane in rete per sempre. Chi digita Mauro Berti, è un esempio mio ovviamente, risulterà tra le altre informazioni che non ha pagato, che è inaffidabile economicamente, punto. Perché è iscritto sul libro dei protesti. Toglilo dal libro dei protesti adesso. Un altro caso più, ancora più semplice. Mauro Berti viene accusato di omicidio, ok? Poi vado al processo, in primo grado perdo, in secondo grado vinco e faccio valere diciamo, la mia correttezza, d'accordo? I giornali, nel frattempo, allora, il fatto di cronaca era importante, quindi esco dalla privatezza e diventa una notizia di cronaca quella che mi prende, d'accordo? Man mano poi che mi allontano da quel fatto, ovviamente la mia privatezza inizia a ritornare in campo, ok? Quindi ho il diritto all'oblio, tra virgolette, no? Anche se sono colpevole, pago in carcere, fine, stop. Dopo ho il diritto a essere dimenticato. 20 anni dopo che ho espiato la mia pena, se sono colpevole, oppure non l'ho espiata perché magari non lo sono, vado a cercare lavoro. Tutti i giornali sono online, la stampa ha messo in rete, che è una cosa fantastica da un certo punto di vista, tutte le copie dal 1861, ok? Chi digita Mauro Berti, gli viene fuori anche l'articolo di giornale di 20 anni prima, dove c'è scritto chiaramente che aveva ucciso il vicino di casa. È vero o non è vero? Perché magari il giornale dopo non lo legge dove è risultato innocente, oppure in ogni caso è colpevole, ma ho spiato, ho finito, insomma, no? Quindi il diritto all'oblio, sancito dalla Costituzione, articolo secondo, la rete lo ha completamente massacrato. E non si può fare niente? No. No. Ma no. Chiedo anche questo, ma scusi. Abbiamo un caso, guardi, le racconto il caso pratico. A mettere il nome e cognome di una persona che conosco. Guardi, le faccio il caso pratico. L'altro giorno mi chiama una signora, mi dice: guardi, sono disperata, gli avevo arrestato il figlio per pedofilia. La signora è un po' suddita, no? E ha pagato, ha fatto il suo percorso di recupero. Sui giornali online vi è ancora quel fatto che è successo 10 anni fa circa, o 8 anni fa per capirci, no? È riuscita, ed è qui il passaggio interessante, scrivendo con i giornali, a mascherare un po' l'informazione. È un diritto che si può chiedere su 2 blog italiani, che non sono in Italia, sono appoggiati su un server straniero, ok? Ma sono gestiti dall'Italia, ve l'assicuro, no? Su questi 2 blog quell'informazione rimane. Causa di questi 2 blog, quel ragazzo a 45 anni non trova più lavoro. Non trova più lavoro. Ha cancellato tutta quell'informazione degli altri, ha chiesto ai giornali: guardate, è vero, colpevole, bla bla bla, ho pagato, eccetera, eccetera. Potete cortesemente offuscare? Quei 2 blog non riesce a chiuderli, non riesce a cancellare quell'informazione da quei 2 blog, ok? Che sono in italiano, però sono su server stranieri. Finito. Non riesce più a trovare il lavoro. Cioè, la rete è questa. Ecco perché pensare prima di mettere le informazioni, almeno quelle che dobbiamo mettere noi, esatto, sotto controllo nostro, è sul controllo nostro. Infatti in Germania hanno etichettato la cosa alla nuova legge che aiuta. Una penale appare lì. l'identità la guardi come identità digitale, che ha più peso dell'identità reale. Perché lei mi appare così, ma poi in rete controllo esattamente che cosa ha detto quella volta quella riunione, certo. Come la pensa sulla storia dei garage. Lo so perfettamente. Capito? Cioè, e provi però a proiettarlo in, magari in interventi negativi, magari un po' forzati, no? Ecco la riflessione che dobbiamo fare tutti. Vedo qua l'ingegnere che c'era, forse se lei visita. C'era anche lei. Ha capito, c'era anche lui. Sì, ma se visitiamolo. Prendo spunto dall'osservazione del dottor Berti. Prima ha detto una cosa molto importante, ha detto, al di là del fatto che si dice internet è un mondo, ha detto giustamente, dottor Berti, è un mondo parallelo. E in questa situazione il parallelismo rispetto al mondo reale lo si avverte ancora di più, nel senso che se noi trasportiamo il diritto all'oblio nel mondo reale, ad esempio nel mondo della carta stampata, chiamo mondo reale nel senso quello forse più tangibile a noi, quello più che noi possiamo toccare, effettivamente la si dice giudiziabilità, la possibilità di far valere quel mio diritto all'oblio, io lo ho attraverso appunto la richiesta di rettifica al giornale, attraverso la possibilità di chiedere che il giornale dia anche conto della mia soluzione in secondo grado, eccetera eccetera. Il problema è che se noi trasportiamo questo nostro diritto all'oblio dal mondo, diciamo, delle nostre relazioni, e quindi da un mondo in cui noi le nostre informazioni in qualche modo riusciamo anche a contestualizzarle, perché ad esempio la fotografia che viene ritratta, in cui lei viene ritratto a fare il suo intervento nel... Quella non c'era, mi pare. Ad esempio, oppure il suo intervento sul giornale che dice il signor X ha detto questo e quest'altro sui parcheggi. Quelli che scrivono i giornali sono soggetti anche a queste... L'osservazione è diversa, è dire, lei compare su quel giornale che ha una data, ha una... è contestualizzato, e quindi lei in qualche modo si può dire benissimo, qualcuno 10 anni dopo dice che in quel momento, sì è vero, in quel momento, in quella situazione particolare ho detto questo, poi però nella rete il problema è questo, che lo stesso diritto è da un punto di vista tecnico, non possiamo più farlo valere, non riusciamo più tecnicamente a farlo valere. Un esempio, un caso che ha fatto molto scalpore, forse avete visto anche dai giornali, è stato il caso che, in cui sono stati denunciati i gestori, quelli che allora era appunto la Google che gestiva l'equivalente di YouTube ora, nel famoso caso Vivi Down, cioè un'associazione che si era costituita in giudizio perché l'allora gestori di Google avevano permesso che venisse caricato un video in cui vi era un ragazzo con disabilità fisica che veniva picchiato da dei suoi compagni, e questo era andato in rete e era stato visto da molte persone, risarcimento danni, e sono stati ritenuti responsabili e allora l'amministratore e il numero 2 dell'allora YouTube, cioè Google al tempo che lo gestiva. La loro giustificazione è tutt'altro che peregrina, che loro hanno detto: signori, noi veniamo ritenuti responsabili, benissimo, ma di che cosa? A noi viene addossata una forma, in questo caso, quasi di responsabilità oggettiva, cioè per il solo fatto di essere amministratore di questa rete. Però noi non abbiamo nessuna possibilità tecnica di controllare tutti i video che vengono caricati. È impossibile per noi, perché ne vengono caricati così tanti e così velocemente che per noi è impossibile controllare tutto ciò che viene caricato. Per cui noi siamo nella condizione di ritenerci responsabili per cose che sfuggono al nostro controllo. Quindi il problema è questo, che molti diritti che noi riteniamo di avere, e in alcune case anche di responsabilità civili e penali che abbiamo, nel mondo della rete subiscono una deformazione per uno strumento appunto che non dimentica più. uno strumento che va usato con attenzione, forse, ecco, non diabolico, però che è difficile da gestire. Cioè il diritto all'oblio in rete è quasi impossibile da far valere. Posso aggiungere una cosa sulla riflessione che faceva? C'è la maniera per chiudere questo? C'è la maniera per evitare questo? Qualche Stato come la Cina lo sta facendo? Ho capito, perché quando la censura totale. Domande, nessuno fa più domande. Perché... Bellissima! È la censura totale. Avere la consapevolezza di quello che si fa e anche mantenere la libertà in rete, perché la soluzione c'è. No, chiudo chiudo perché, tutto. Mi scusi, il mio intervento non era esatto come riportato, no? Il resto. Però evidentemente il giornalista. Diritto di sintesi. Io l'avevo messo in maniera molto soft, no? E non sa cosa scriverà Alice domani sul suo blog. Scusa se mi ha proprio. C'era una domanda. Io volevo intanto vi ringrazio per l'intervento, che è stato veramente interessante. Però volevo darvi un feedback da questa parte. Che credo vi possa servire. È passato un messaggio molto pesante, nel senso che siamo tutti in rete, attenzione, eccetera, eccetera, però nel singolo, nel soggetto può anche venire con l'idea, ok, io voglio starci dentro, però non voglio più starci dentro con la mia identità, con la mia identità grafica, con la mia identità reale. Quali sono quindi i pericoli penali che posso incorrere se do a Facebook un nome che non è mio? Al di là del fatto che non so come si faccia, però evidentemente gli strumenti ci sono. Se recentemente una persona è stata indiziata di reato perché aveva addirittura 5-6 profili diversi ed era in corso in reati piuttosto pesanti. Allora, direi che bisogna fare chiarezza su una cosa. Allora, entrare nella rete con un profilo diverso dal proprio, in senso generale, è normale. Si chiama avatar. Esiste addirittura un programma, chiamiamolo così, un ambiente virtuale, Second Life, seconda vita, che ti istiga proprio a far questo. E solitamente si tende a creare un avatar, quindi un Mauro Berti lì dentro, che non si chiamerà Mauro Berti, ma se a me piace essere donna sarà un avatar donna, se a me piace avere 35 anni invece che 50 sarà una donna di 35 anni, se mi piace essere avere forme particolari sarà un avatar così, mi piace comportarmi un po' sopra le righe, mi comporterò sopra le righe. Quindi l'avatar che costruisco in questo gioco, chiamiamolo così, ma è un mondo virtuale, Second Life, si tende, ma non lo dico io, lo dicono gli specialisti, psicologi, psichiatri, eccetera, eccetera, si tende a costruire un alter ego di se stessi, quello che magari si vorrebbe essere, magari quello che ci piace, ecco, ok? Quindi sì, è normale. Sì, però questa è morto, no? Sì, perché è un pochino lento, si è suicidato da solo, ma guarda che c'è gente che ci ha investito un pozzo di soldi, eh? Sì, sì. Grandi aziende, Microsoft, la Total, l'IBM, eccetera, eccetera, per creare la pubblicità lì dentro, eccetera, eccetera, ma era troppo lento, cioè ci vogliono connessioni più veloci, su questo è vero. Invece capisco il senso della sua affermazione nel momento in cui creo su Facebook, per esempio, dei profili falsi. Allora, il concetto di profilo falso, perché è importante riuscire a comprenderlo. Se io creo un profilo a nome di Mauro, cioè se un altro soggetto crea un profilo a nome di Mauro Berti con una foto che non è la mia, non è un falso profilo. Ok? Se un soggetto costruisce un profilo a nome di Mauro Berti, foto di fantasia, un cane, ok? Però dentro parla del mio lavoro, è un profilo falso, perché all'interno ci sono tutte le indicazioni che fanno chiaramente capire che quel Mauro Berti di quel profilo, che non c'è la foto, è proprio quel Mauro Berti della polizia, eccetera, eccetera. Quindi ci sono questi aspetti. Allora, riconoscere un profilo mirror falso deve rientrare in queste caratteristiche, dove o nome, cognome e foto sono effettivamente di un altro soggetto, d'accordo, indiscutibile, o in ogni caso i commenti che ci sono dentro fanno chiaramente capire questo. E vi spiego perché. Scuola, cioè i ragazzi sono una miniera di informazioni. In una scuola mi chiamano, Perché? Perché ho dei ragazzini di seconda media, 12-13 anni, creano un profilo al nome, con il nome del professore, non mettono la foto, ma dentro commentano dell'interrogazione di oggi, ti ho dato 7, stai tranquilla, quindi mettono dentro tutta una serie di informazioni reali, perché effettivamente quel ragazzino che era in contatto con quel profilo che sembrava del professore, quel giorno era stato interrogato. Quindi venivano messe in rete delle informazioni così chiare che facevano identificare che effettivamente quello poteva essere il professore. Quello è un profilo falso. Si risponde penalmente. Di questo si risponde penalmente. Chiaro che poi sotto i 14 anni il diritto penale, cioè la responsabilità penale non esiste, si è imputabili, quindi e la responsabilità penale non è demandabile ai genitori, ok? Però ci sono i risarcimenti civilistici, i provvedimenti della scuola, eccetera, eccetera, in quel caso lì, no? Quindi un profilo falso, una falsa identità, la si crea quando si fa nome e cognome e quindi anche la fotografia, o ci sono elementi chiari che identificano quel soggetto. Ecco, questo è, naturalmente sono previsti la falsificazione e quindi è un reato. L'ultima sentenza del libretto parla proprio di questo. Perfetto. Silvano, e qui ci, Silvano adesso ce la dice, ce la, in modo molto, molto sintetico. È proprio questo è il caso. Cito il riferimento, se a qualcuno potesse interessare, è una Cassazione del 2007, la 46674, che tratta proprio questo aspetto, cioè un soggetto, Tizio, utilizzando il nome di Kaya, apre un account di posta elettronica, creando appunto utilizzando appunto come indirizzo quello di quest'altra soggetta e di quest'altra persona, e a questo punto non rivela la sua vera identità, ma utilizza l'identità dell'altro soggetto, di Kaya, e a questo punto dà delle indicazioni appunto agli utilizzatori della rete, e questa persona comincia a ricevere tutta una serie di offerte, di considerazioni, eccetera, eccetera. Ora, qui è un caso interessante, perché notiamo come è un classico caso di adattamento di una norma penalistica nata nel nostro contenuta nel nostro codice penale, pensata fino a qualche tempo fa per l'identità reale, cioè io mi faccio passare per Paolo Gasperi per ingannare una persona alla quale io mi sto rivolgendo, e quindi la persona crede di parlare con Paolo Gasperi e non con Silvano Marchi, e questo reato è contenuto nell'articolo 494. Lo leggo velocemente senza cercare di tediarvi troppo. Dice: chiunque al fine di procurare a sé o altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, questo è l'aspetto finale, la condotta è finalizzata a questo: ho un vantaggio o voglio creare un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o a altri un falso nome o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. Questa è una norma che, con una certa facilità, a differenza di altre norme, che sia del codice, in particolare del codice penale, ma anche dell'ordinamento civilistico, è stata facilmente trasferita nell'ambito del mondo reale, scusate, del mondo virtuale. Perché dico questa è stata facilmente, altre non è stato così, pensiamo per esempio all'utilizzo della posta elettronica, la segretezza, eccetera, il controllo dell'email da parte del datore di lavoro. Ci sono degli ambiti in cui l'applicazione, l'estensione, diciamo, delle norme pensate da un legislatore di 20, 30, 40 anni fa al mondo digitale hanno dovuto, come dire, subire delle modifiche, anzi a volte addirittura delle forzature, se vogliamo, interpretative. Qui invece il problema non si è posto, perché è esattamente questo: al posto di far pensare alla signora io riesco a ingannarlo dando tutta una serie di indicazioni, magari avendo in mano una falsa attestazione, lei pensa di parlare con lui, in realtà sta parlando con me, e io questo lo faccio per un mio vantaggio o per creare a lui un danno. Nello specifico qui la sentenza era creare ad altrui un danno. Perché? Perché il retroscena era che questa persona voleva mettere in cattiva luce nella, appunto, identità digitale di Kaya questa persona, e quindi nel suo fingendosi lei dava tutta una serie di indicazioni fuorvianti rispetto alla sua identità reale alla rete. E questo è un caso devo dire, abbastanza frequente, che però a cui la Corte di Cassazione ha, come dire, stabilito in modo molto chiaro e inequivocabile che questo è furto d'identità. Pensate su questa cosa, gli informatici con cui collaboro sanno che mi occupo di queste cose, e a volte succede che facciano un gioco, loro mi dicono: ah, mi sostituzione di persona, e loro mi dicono la parte tecnica, 4 click, e io dico 2 anni di reclusione. E sembra un gioco, però c'è una disparità incredibile, perché questi giovani ingegneri mi rispondono in click, mi dicono, che ne so io, diffamazione, 3 click, 10 minuti, ammenda fino a... E c'è questa disparità incredibile, che per noi è diventato un po' un gioco, perché sanno che mi occupo di queste cose, però trasformato nella loro testa, loro lo trasformano in click. Sono giovani ingegneri, per cui gli dico sostituzione di persona, questi mi dicono invariabilmente da 3 a 4 click, che se ci pensate, in termini di tempo, vuol dire un niente. E nella loro testa si traduce anche abilità da gente scarsa, cioè qualsiasi cretino riesce a farlo, perché se mi dicono 4 click, nella loro testa dicono, codificano il reato come abilità tecnica da demente, perché fanno così, no? Mentre poi l'apparato normativo, quando ti capita addosso, con lo schiacciasassi che citava del film, non si ferma mica tanto facilmente con 2 click, lì non servono 2 click per fermarlo. Ma volevo chiedere, io ero rimasto ai tempi, l'uso di internet, pedofilia, pornografia, eccetera, ma voi per esempio adesso vi occupate di questo, di queste problematiche o... Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, la Polizia di Stato ha una specialità che è la mia, dove lavoro io, che è organizzata in questo modo. Esiste un servizio centrale, poi ci sono, ogni regione circa ha un compartimento, la nostra regione Trentino Alto Adige ha il compartimento a Trento, dove io lavoro, che è diretto dalla dottoressa Tiziana Pagnozzi, e qui a Bolzano, in via Palade, possibile, dove c'è le poste centrali? Via Resia. Via Resia, perfetto. Ha una sezione che per resto è particolarmente competente, molto brava, e ha, oltre che conoscenze giuridiche come noi dobbiamo avere, ha, come noi anche dobbiamo avere, delle conoscenze informatiche particolarmente elevate. Ci sono degli ingegneri che lavorano anche lì, per capirci. E cerchiamo di stare vicino al cittadino in due modi diversi: uno, reprimendo i reati, attività sotto copertura, e poi andando nelle scuole per cercare proprio di parlare di queste cose, come abbiamo fatto oggi con voi, e che fra resto con un pubblico veramente fantastico, e del quale io vi faccio i complimenti, perché è attento, indipendentemente dall'età anagrafica, a questo fenomeno, che non è un fenomeno facile, e vi faccio i miei personali complimenti. Bene. Grazie mille. Grazie. Un applauso a voi. Valeria, volevo solo ricordare se potete dire l'indirizzo del sito dove si può leggere il libro o il titolo, ma comunque volevo tranquillizzare, qualche copia ce l'abbiamo anche noi a disposizione, quindi oppure se potete ricordare come si può ottenere. Immagino Google. Internet, di internet delle pene, e 20 siti che ti segnalano download. Questo è un sito che Ma questo è un sito che teniamo in piedi così, aggiornandolo, che fa parte di un progetto partito qualche tempo fa, forse ce l'ho fatta. Forse ce l'ho fatta. e che stiamo aggiornando. Qui trovate riferimenti ad altre sentenze, commentati ad altri fatti che riguardano in generale internet e minori. È gestito da professionisti, tra cui una psicologa, io, Silvano Marchi, e qui pubblichiamo le nostre riflessioni quando abbiamo tempo, quindi trovate istruzione del garante, commento a sentenza, eccetera eccetera, e a breve pubblicheremo anche il download del libro. Questa dell'editore. Esatto. E quindi potete trovarlo facilmente. Questa per noi è un'attività in più che facciamo molto volentieri per passione, però il nostro lavoro, insomma, è un altro. Ok? Grazie ancora, sono stato. Arrivederci.